Ora, 1, 2, 3, prego. Ora, attenzione, binario 10, cambio. Ma mi intende se? Sì, sì. Benissimo, e c'è anche una modulazione abbastanza spinta. Che rosmetro stai usando? Quello tuo, di casa? Scusa, io... Che rosmetro stai usando, Gianni? Oh, abbiamo parlato in due. Che rosmetro stai usando? Rosmetro... Sta fischiando adesso, non so se ti stia autoascoltando oppure è un innesco. Guarda, c'è il parla ascolta, guarda adesso. Perfetto. Cavolo, vai. Adesso sono qua nella strada nuova che porta a casa, vai, sono lì. Eia. Sì, sì, di lusso, di lusso. Bellino quel Cobra, bellino. Bello apparato. Ma forse ho fatto male a non comprarlo quando ne ho avuto l'occasione, ma d'altronde mi... Cioè, non è che posso fare le catasse di baracchini, no? Anzi, grazie a Dio che mi sono liberato di un bel po' di roba, soprattutto quelle cose vecchie. Davvero? Tutto venduto ti hai mai? No, le cose vecchie, ti ricordi Colmex 4000 Echo, 548SX, l'FM500S, tutta roba che ho smaltito, ho regalato, ho venduto. No, poi quelli buoni li tengo, non me ne voglio nulla, cioè hai visto quante spese, cose, poi alla fine, va. E infatti c'è solo poca gente, buh. Passa un attimino sul 20. Eia. Ecco qua, su 10 dovrebbe andare meglio, guarda. Ora, 1, 2, 3. No, non cambia già, sono infinitesimali le... Anche se ti cambia da 1 e 2 a 1 e 4, cioè le perdite sono infinitesimali. Poi con questi meter cosa vuoi rilevare? Possiamo fare la prova all'estremità sul 40, così te le controlli anche le stazionarie. 40? Attenzione, canale 10, cambio. Hola, hola, 1, 2, 3, prova, cambio. Hola, sul canale 10 c'è qualcuno? Hola. Marco. Sì, sempre uguale, dai, sempre uguale, va benissimo. Va benissimo qua. Eia, dell'Ormetto, ti avevo chiesto, mi hai detto ZG, ma qual è quello piccolino veicolare? Modello 203. Ah, e poi me lo guardo adesso. Quello avevo io, il 201, quello da stazione base. Quella, mamma mia, per carità. ZG, io ancora sto piangendo quelle MFJ, ancora lo sto piangendo, sparito nel nulla. Ma sarà in casa, te l'ha buttato in casa facendo pulizia. Sì, perché quando vedevamo sacchi di roba vecchia, lampadutto, metti che fosse stato messo per sbaglio in qualche bustone con roba, confuso con altra roba buona, è colpa mia, così impara a tenere la roba a conto, capito? Eia, Marco, è una scena. Una scena, già che ci fermano già, mi faccio tutti pericolosi. Ecco qua. Avevo toccato un tasto e non riuscivo a regolare tutto. sta sette ultimi, va appena appena a capo questa macchina, si sposta il computer, cazzo, ti dà altre cose, capito? Prendi la pressione, olio, la batteria quanto è carica, ti dà anche la carica della batteria mentre sta macchina. Buono, buono. Ah, non sento, non ho sentito più Tonino, non ho più sentito Riccardo per esempio, non ho più sentito Roberto, tutti scomparsi, tutti in ferie, tutti con le case e le ville al mare sicuramente. Ehi, ehi, ehi, a nemmeno io li ho più sentiti, non li ho sentiti manco più io, gambi là. Io francamente dell'estate ne ho le tasche piene, non so se andrò pure, perché non mi sento molto brillante in questo ultimo periodo. Vediamo che accidente sta arrivando, ogni tanto ce n'è uno. Non ti cullare sui galluri così, vai, esci, cerca un po' di femminucce, passa tutto. Manco di quello voglia, è preoccupante, proprio sono giù di tono fisico, proprio stanco muscolarmente. E d'altronde io, cioè se sto sempre posato, io credo che sia giù di muscoli. Sono sempre o seduto o sdraiato a casa. È una cosa incredibile. Vabbè, comunque un risotto meno male, dai. Ciao, va bene. Voglio essere pignolo, cazzo, lo voglio portare a uno, a vaso stoppere. No, uno sta uno, che può ragionare su un canale, uno e uno è di lusso, sì. Vedi tu già, non lo so, ma non ti sbattere troppo nemmeno, piuttosto lo stile come l'hai tagliato, seghetto o tronchese? Penali a malpezzo. Ah, a colpi. Una volta ho usato una tronchesina che però non era molto grande, con un'antenna, che antenna era? Quella bibanda. Ah, caspita, non tagliarla, non riuscivo a tagliarla. Sembrava un'antenna di cacca, di proprio quel ferrettino dolce, che era acciaio inox, brunito però, no? E ho dovuto faticare. Oh, io no, gli do un colpo di mazza e si spacca. Un colpettino solo, basta. E io, sai cos'è? Che in quelle antenne c'è il cimino più sottile, no? In punta è più sottile, e mentre quella che avevo tagliato io, che poi si è rovinata, c'aveva una dimensione unica, dalla base alla punta era 3 mm e mezzo, credo, e quindi già era tostichetta. Ma poi, perché lo so? Caso già lo tomo un quarto, sono, e vado a me a casa, va. Uia. Tutte le prove le ho fatte, la soddisfazione ce l'ho avuta, non voglio esagerare, va. Uno e uno, uno e due ha parlato, cazzo sale parlando, te lo immagini? Eia, no, ma ripeto, trascurabile, ci mancherebbe, sotto 1,5 è di lusso già. Cosa ti volevo dire? Naturalmente poi come vai in mezzo alle macchine con muri che riflettono, magari vedi che salgono le stazionarie, magari se lo tieni collegato gli dai un'occhiata te ne accorgerai. E quindi anche la messa a punto in spazi aperti è molto molto relativa. Sì, ce l'ho. Come già? Praticamente collegandolo e dopo passando in mezzo alle macchine sta salendo 1,4. Sì, cioè alla fine, sì, quando sei fuori città che non hai macchine a fianco, quando non hai muri che riflettono, vabbè, è così, che cambiano sempre col movimento, e quindi... Dove non ci sono né alberi né palazzi, sei sceso a 1,1. Cioè, sto parlando di 1,2, 1,1, 1,2 al massimo. Ah, ma già va bene, a voglia, con questa storia che ha portato a terra. Io mi ricordo che 30 anni fa c'era gente che al baracchino si faceva paranoia appena aveva, che ne so, 1 e 2 di stazionarie, anche a casa, si metteva a cordare, a mettere l'accordatore, ma per cosa? Per 1 e 2. Cioè, a parte che come inserisci la sezione accordante ti dà delle perdite anche significative, soprattutto se è roba ZG. Ho detto, io finché non arrivano a 2 le stazionarie non accordo. Io se non avevo 2 non accordavo. Sotto il 2 me ne fregavo da casa. Ti parlo degli anni 80, no già? No, io 1 e 5 cominciavo a già preoccuparmi. Allora salivo su, controllavo, si raccontavo. E la molla, amiche, si muove col vento. Si allarga la molla e magari scende, si mollano i bulloni, capito? E scende la molla. Comunque adesso mi sono sotto il parcheggio di casa, mi sono a vedere tutto davanti agli altri, davanti ai palazzi, e mi dà 1 e 2. Tu pensa che col 3009, no? Mi è capitato che ero senza antenna e io non me ne ero accorto. Perché uso lo squelch sempre inserito e non mi ero accorto che mancava il QRM. Premo la portante, sai, per un secondo ho visto ta fondo scala, poi come molli la portante, c'è il beep che dura una frazione di secondo, insomma un secondo e mezzo dai. Un secondo e mezzo di portante premuta senza antenna. Mi è capitato un paio di volte, non è mai successo niente, il finale non è partito. Quindi, cioè, per bruciare i finali credo che uno debba metterci il massimo dell'impegno. Non mi è mai capitato a me in 30 anni di bruciare i finali o roba del genere. Non è capitato a qualcuno che va a vita da Drui e se fa mollare 5 minuti. È capitato a te. Ma sai già, senza antenna, un secondo di trasmissione, un secondo e mezzo senza antenna, cioè io appunto, ho visto Manetta come ha mollato, quel bip ritarda anche la caduta della portante, poteva fare il finale, puff, e brucia, invece no, il 3009 è bello robusto. Ma qua invece devo mettere un apparato piccolo che renda, perché mettendoci questo apparato qua non posso chiudere il cassetto, quindi è inutile. Se voglio fare una cosa ben fatta ci vuole un apparato più corto, perché come larghezza può anche andare bene, anzi ci sta 3 volte qua, ci stanno uno e l'altro, tutti e due, capisciamo. Ascolta, una domanda, il Cobra è più grande del 48? Dell'Alan 48? No, più piccolo, anche il 48 l'ho provato e non chiude il cassetto. C'è il microfono attaccato e non chiude. Ah, siamo lì. E d'altronde apparecchi piccoli, molto compatti, che escono bene. Oddio, boh. Io stavo adocchiando questo McKinley, presidente McKinley, però è piccolo come un 48, se non di meno, no? Tipo un FM500S, però c'ha 1000 canali, MFM bande laterali, qualche watt in più, carino, ma l'ennesimo acquisto inutile sarebbe. Ma infatti, oh, sono passati ancora le stazionarie qua. Com'era nel cassetto che c'aveva il cavo piegato, dopo più stazionario che rimane. Ah, c'aveva proprio la curva, sì. E infatti io quando mettevo il baracchino cercavo di lasciare il cavo bello sviluppato in lunghezza, non matassato, no, perché di solito gli mettono cavi abbastanza lunghi, no, queste antenne da macchina. Cercavo di lasciarlo bello sviluppato in lunghezza, senza fare curve troppo acute o matasse. Aspetta, andiamo su qua. Ma io? Gianni, guarda che sul 23 c'è gente, se sei ancora a Piazza Lesegna approfittane. Ah no, non sei più lì. Sono sotto casa, Marco, sotto casa, su quanto c'è ora qua, vabbè, ma è anche, aspetta che avevo, sì, dove là, sono qua, su 1 e 3, su 40. Allora, allora 6, 9, modulato 9 più 5, varia molto in base alla posizione. Peccato perché fino a poc'anzi non c'era nessuno, adesso sul 23 c'è gente. Da Piazza Liceni avresti potuto chiedere controlli un po' più in distanza, diciamo, adesso sei anche troppo vicino là. Comunque fai. No, vabbè. Le prove poi si fanno in distanza già, andando a Polo Torres, verso Alghero, che ne so. No, no, sul 23 non c'ho confidenza con loro. Vai tu, dai, ci sentiamo già. Ma perché ti sembra che parli, no? Che ci vuole questa confidenza? No, no, non mi piace, dai. Dai, ci sentiamo già, vai sul 23, chiedi controlli anche di dai. Sì, dai. Ascolto, poi magari vediamo su quella.